fra te, nella testa della gente buio eterno, nel cuore freddo inverno, io sardo d'occhi in stesura so con altro quaderno, e non ti servirà d'un cazzo pregare il Padre Eterno, sempre con la stessa gente, la stessa gente di sempre, sempre con la stessa mente di sempre, perché qua non è cambiato mai niente, è giunto il momento di svoltare, ma cosa significa per te svoltare, per me dare cotta che è in grado di poterla abbracciare, ora che son calate le carte vincenti da giocare, sardo d'occhi e tazza boia fra te, qualsiasi altro punto che mano lo puoi anche buttare, conosciamo piccoli e stradine chiuse, facce barrose e illuse ed è chiare, menti psicolabilmente confuse, tra chi fa i fatti e chi sono le scuse, si susseguono tratti di scazzi e brutte storie mai concluse, il patto diretto con le casse che poppano motivazioni, da platamole pompieri zombie, cofani sfornano bottiglioni. Scusa se poco. Fuori da questa città, la realtà fissa sa di libertà, ma di qua è un baradam, eppure insisto, la mia vita a rischio, fino a che finisco, l'aria non sto zitto. Sassari City dei gremi spremi, troppi scemi su cui scleri zero premi, vola giù dal ponte se da tutto ti rinneghi qua, risparmia le metafore, risalta la catastrofe, fottuta vita vuota che ricopi dalle pagine gialle, dalle solo spalle, quale mano, zero confidenza per la gente senza palle. Pelle. Sono il primo sconosciuto che non regala caramelle, ma i babbioni se ci stanno sempre. Tazza boie brano dalla Sassari Gardens, pompieri dalle casse col disagio in matasse, abbaie dopo sbrano la mia Sassari poser, esente dalle tasse, fisso in nero come un picche, semino cartucce, mezza pinta si riduce, l'aggancio alla realtà che più sempre si fa atroce. Sassari ti nuoce, stressante come suocere, cazzo quanto rompe, tocca sempre solo evadere. Fuori da questa città, la realtà fissa sa di libertà, ma di qua è un baradam, eppure insisto, la mia vita a rischio, fino a che finisco, l'aria non sto zitto. Fuori da questa città, la realtà fissa sa di libertà, ma di qua è un baradam, eppure insisto, la mia vita a rischio, fino a che finisco, l'aria non sto zitto.